English Bit di Giulia Crivelli. To take place. The biggest changes are taking place in Paris, where Anthony Vaccarello is stepping into the creative director post at Saint Laurent. I cambiamenti più grandi stanno avvenendo a Parigi, dove Anthony Vaccarello sta assumendo l'incarico di direttore creativo di Saint Laurent. Di questo titolo del New York Times, dedicato alle imminenti settimane della moda di New York, Londra, Milano e Parigi, ci interessano molte espressioni. Cominciamo da taking place, phrasal verb composto da un verbo to take, irregolare, took, taken, e da un sostantivo place. E questa è una prima curiosità, perché la stragrande maggioranza dei phrasal verbs sono composti da un verbo e da una preposizione. Il significato di to take place è succedere, accadere. The event took place in a very crowded theater. L'evento si tenne in un teatro assai affollato. Notiamo però, banalmente, il superlativo biggest. In inglese per arrivare al superlativo si aggiunge il suffisso est, ma bisogna fare attenzione alle parole che finiscono con una consonante e a quelle molto lunghe, che si preferisce non allungare ulteriormente. Il più bello si dirà quindi the most beautiful, mentre il più lungo è longest, con una G sola. Biggest, il più grande, ne vuole due di G. Torniamo a take, verbo capriccioso che ha molti significati. It takes about an hour to get to the airport. Ci vuole circa un'ora per arrivare all'aeroporto. She is planning to take a course in computing. Sta pensando di fare un corso di computer. Even the experts took the painting for a Van Gogh. Persino gli esperti scambiarono il quadro per un autentico Van Gogh. Lots of couples have problems in their first year of marriage. Take Paul and Mark. Molte coppie hanno problemi nel primo anno di matrimonio. Guarda l'esempio di Paul and Mark. Nel titolo dell'articolo del New York Times di Vanessa Friedman c'è poi l'espressione stepping in. Anche in questo caso si tratta di un phrasal verb. Step è sia sostantivo, passo, sia verbo. Con l'aggiunta di in diventa subentrare, mentre to step out significa andarsene. Stepmother e stepfather sono invece il modo scelto dagli inglesi per indicare madre o padre adottivo, forma decisamente più poetica dell'espressione italiana matrigna-patrigno.